La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, questo This is the End di oggi a quest'ora forse a molti di voi in ascolto potrebbe evocare qualche cosa, ma noi oggi non ci possiamo occupare di quello che nel frattempo, mentre parliamo fino alle 5, non sarà avvenuto al Senato, e l'intervento di Silvio Berlusconi, sto ovviamente riferendosi al voto sulla decadenza di Silvio Berlusconi, è stato spostato, almeno fino a 3 minuti fa sulle agenzie, così si diceva, dalle 16:30, quindi almeno avremmo potuto commentare quello a Palazzo Grazioli, dove c'è la manifestazione, a dopo le 17. E quindi, cari ragazzi, questo This is the End dedicato a questo evento del giorno, però da parte mia e da parte del nostro ospite non potrà avere alcun commento. Vediamo come va, che cosa volete che vi dica. Ma scegliamo un tema che ha a che vedere con la perdita di credibilità dell'Italia, e la perdita di credibilità dell'Italia ha a che vedere anche se non fondamentalmente poi con queste vicende qui che ci rendono un po' marginali agli occhi del mondo. E parliamo di un settore, cioè quello del turismo, che la settimana scorsa ha visto avvenire quella che dovrebbe essere agli occhi di tanti di noi, dico anche dei giornalisti innanzitutto, una tragedia, perché abbiamo perso in un anno nella graduatoria internazionale della attrattività italiana ben 5 posti, siamo scesi come Italia dal 10° al 15°, che è un bello slittamentone per un paese che ha, come si sente sempre dire, il più grande patrimonio artistico, culturale, museale, monumentale, eccetera eccetera eccetera, e invece noi abbiamo perso 5 posti in questa graduatoria, abbiamo perso 5 posti, se andate a vedere perché nel frattempo ci hanno rubato i quadri, no, qui siamo sempre primi noi in queste cose qua, anche nelle subgraduatorie che comparano i diversi paesi, però siamo a fondo nella graduatoria di credibilità pubblica, delle istituzioni pubbliche culturali, di come funziona il sistema dei trasporti e così via. Ed ecco perché, ripeto, vicende come questa, che citano tutti, quella che sta avvenendo adesso in contemporanea, in realtà poi fuori vengono utilizzate per una percezione dell'Italia che ci svaluta rispetto ai nostri concorrenti, anche sul turismo, che è una roba che pesa 140 miliardi di euro, pesa tanto, potrebbe pesare molto di più se solo appunto non perdessimo punti su tante questioni, per così dire, dall'accoglienza alberghiera, dai servizi che offriamo, dai trasporti che non funzionano e così via. Allora ne abbiamo parlato stamattina si è tenuto un appuntamento annuale che è quello in cui il soggetto più grande di organizzazione del turismo nel nostro paese, e non solo nel nostro paese perché è attivo in Italia, è attivo in Francia, è attivo in molti altri paesi europei, ed è un soggetto che nel 2012 ha mosso 2 miliardi e 200 milioni di fatturato di organizzazione di viaggi, non solo per turismo a fine da diporto ma per turismo nel segmento per le imprese e così via. Ogni anno in questo novembre fa l'appuntamento annuale in cui si fa il punto della situazione e si tenta di capire come va per il futuro. Dietro l'angolo c'è l'Expo promette 20 milioni di visitatori, di cui 6 milioni dall'estero, e detto tutto questo, oggi proprio questo calo di 5 punti italiani è risuonato come un motivo mesto, ma non per questo per mollare. Però nel frattempo io intanto vi presento il nostro ospite con il quale commentiamo che cosa si può fare di più per questo settore che in realtà scende perché l'Italia pubblica ci fa perdere quota. Ed è con noi l'amministratore delegato di questo soggetto che vi ho detto si chiama UVET ed è il più grande organizzatore di turismo nel nostro paese, di viaggi, ed è anche il presidente di Confturismo, si chiama Luca Patanè. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno Oscar. Allora, a te. Iniziamo proprio dal commento che lei ha fatto. Innanzitutto c'è un commento che bisogna fare, perché è prima in graduatoria come attrattività turistica la Svizzera, viene un po' il sospetto adesso, non è che la Svizzera batte tutto il mondo come attrattività turistica, oppure no? Sì, è vero, anche a me ha colpito questa graduatoria con la Svizzera, però ci sono delle ragioni, c'è una spiegazione dietro questa graduatoria sulla Svizzera, c'è il fatto che è un paese comunque con una lunga tradizione di neutralità, io aggiungo anche magari il segreto bancario un po' negativo in questo senso. Beh, una buona motivo per fare turismo e visitarla, sì. Cioè. E poi diciamo ci sono anche altre logiche che sono quelle comunque dell'efficienza dei servizi, della preparazione, dal fatto che si rinnova comunque per essere attrattivo. Le naturali bellezze ce le hanno e queste sono innegabili, però ce le hanno anche altri paesi. E nel frattempo, naturalmente, io ti interrompo, ma non possiamo fare altro che andare avanti con il nostro commento, perché sugli schermi appare in diretta da Palazzo Grazioli Silvio Berlusconi, quindi il mio obbligo come cronista segnalare a chi voi sta a casa eccetera eccetera vuole sentirlo, andate, perché è lì con una, ohimè, un Dolce Vita nero. Non vorrei fare commenti sul colore di questo mi sembra nero, non blu. Ma detto questo, allora, al di là della Svizzera, come si spiega questi 5 punti persi in graduatoria in un anno? È difficile dare una spiegazione così netta e tranciante, perché 5 posti in graduatoria in un anno sono veramente tanti. Non è che 2 anni fa il nostro paese fosse così poco attrattivo, però quello che noi possiamo dire è che è un trend che è nato da un po', è nato dal fatto che l'industria turistica italiana si sta rinnovando. I tempi in cui di rinnovo dell'industria turistica italiana purtroppo non sono quelli magari che il mercato fuori si aspetta, e quindi la percezione del paese, secondo noi, che emerge anche da voi, dai media, non è una percezione spesso positiva al 100%, e quindi spesso il fatto che non funziona un servizio, cioè uno sciopero, viene riportato sui giornali di tutto il mondo, e quindi questo diventa una fonte negativa. Poi c'è, secondo me, una maggiore efficienza dell'industria turistica che va ricercata, che deve andare a prendersi nei nuovi mercati il nuovo business, e questo è una cosa fondamentale, cioè bisogna essere attivi e crederci. Da questo punto di vista è una cosa che noi dobbiamo fare, e ce ne pigliamo pienamente la sfida. Vogliamo rovesciarla questa classifica, abbiamo l'Expo nel 2015 e io spero per quella data di poter recuperare, vedere recuperare, diciamo, la nostra credibilità in maniera sostanziale. Nell'afflusso di milioni, più milioni, meno milioni di turisti dall'estero, quanto ha pesato e quanto potrebbe pesare la vicenda del vettore nazionale all'Italia, che sta, insomma, nella condizione che spesso a questi microfoni descriviamo passo passo, che la sua vicenda di crisi va avanti? Ha un impatto forte, medio, forse amplificato dalla stampa più di quanto non sia realmente? Beh, raggiungere il paese è fondamentale, quindi raggiungere in maniera più veloce e più efficiente possibile, evitando tanti scali, per noi sarebbe fondamentale da questo punto di vista. Quindi il vettore nazionale ha sicuramente un ruolo. Calcoliamo però che ci sono anche altri vettori che raggiungono il paese, e questi sono ben contenti di prendersi quello che magari il vettore nazionale non può e non riesce a, diciamo. Perché in realtà l'Italia vale il 21%, insomma, di tutto il traffico aereo da e per l'Italia, ecco, compreso il mercato domestico. Sul mercato domestico arriviamo quasi al 50%, però se pensiamo di chi deve venire e raggiungere dal mondo, l'80% non vola certo all'Italia. No, certo. E questo dato, se noi vediamo dal 2006 a oggi, è indubbiamente ha portato in discesa l'utilizzo dell'Italia, perché connette sempre meno paesi. Questo purtroppo è un trend su cui noi non possiamo fare molto. Certo sta che un rinnovamento dell'Alitalia, quindi un rinnovamento dell'offerta turistica legata al sistema dei trasporti, è fondamentale per il paese. Secondo me però posso aggiungere anche un nuovo sistema fiscale per il turismo, perché serve, e è una cosa che le aziende del settore stanno aspettando dal governo e dai governi di questi anni. Non vediamo nulla da questo punto di vista, e questo secondo me è un punto non secondario. Veniamo al capitolo Expo. Quei numeri, la grande attesa e un po' di diffidenza, perché proprio stamattina avete proiettato dei filmati in cui chiesto alla gente per strada a Milano cosa vi aspettate, insomma, diciamo che la diffidenza era forte, il ritardo sulle opere era molto sottolineato, colpiva i cittadini e li deludeva e li faceva rimanere perplessi assai più dell'evento in sé, per così dire. Ecco, ma in realtà, per la sua impressione, a che punto siamo? C'è da crederci sul fatto che poi all'ultimo momento si fa il miracolo, arriveranno davvero 6 milioni dall'estero di visitatori? Secondo me sì, ne arriveranno di più. Ah! Io sono ottimista, perché secondo me, anche se sottodate, sottotraccia, riusciremo a farlo questo dato, e l'Expo sicuramente riuscirà a farlo questi lavori. Sono ottimista, guardi. Sono negativo su tante cose che sono di contorno nel paese, dalla politica alla pressione fiscale, al fatto che spesso si chiacchiera molto e si fa poco, però su questa cosa dell'Expo sono molto ottimista, e sono sono anche ottimista su che è una grande opportunità per le imprese del settore nostro per ritrovarsi, rilanciarsi e trovare un punto di spunto per gli anni futuri. Da questo punto di vista sono ottimista. Parliamo, mentre appunto Berlusconi parla alla sua manifestazione di Palazzo Grazioli, di questo scivolone di 5 punti nella graduatoria internazionale dell'attività turistica che è stata resa nota la settimana scorsa, è un indicatore che fa testo per il mercato degli operatori mondiali. E siamo qui con Luca Patanè, che è l'amministratore delegato di Uvet, il presidente di Confturismo. Patanè, ma è vera l'osservazione che fanno alcuni nei grandi numeri del traffico internazionale per il segmento affluente, per quello medio-alto e così via, si fanno con grandi operatori integrati? L'Italia ne ha pochi, al di là di voi, troppo pochi, e quindi non in grado di, tra virgolette, vendere bene, intercettare, per così dire, la domanda con un'offerta ben organizzata? È vero in parte. Io penso che in Italia, vabbè, il turismo è fatto da una struttura di piccole e medie aziende che c'è sempre stata, soprattutto nell'area incoming, e questo diciamo che ha portato a una capacità diffusa sul territorio nella regione, ma una scarsità di marketing, di promozione di brand. Questo è la debolezza da un certo punto di vista. Dall'altra parte però bisogna fare delle riflessioni su quello che è successo negli ultimi anni nel turismo, nella tecnologia. La tecnologia ha cambiato il volto, il web ha cambiato il volto del turismo a livello mondiale, quindi il ritardo che tu puoi avere sulle dimensioni lo puoi recuperare nella velocità di adozione di certe tecnologie, di essere presenti sui mercati come brand anche attraverso soluzioni tecnologiche innovative. Quindi secondo me l'adozione di tecnologie può aiutare a ridurre il gap. Senta, ma qua, quello che pensano molti, cioè che la quota di disintermediazione, del fare a meno dell'operatore specializzato consentita dalla rete, che ne so, tramite TripAdvisor, dal viaggio più piccolo interno in Italia a quello della ricerca delle tariffe sia alberghiere che aeree, che di connettività intermodale, poi dall'aeroporto dove uno deve andare, finisce per abolire l'opera dell'intermediario specializzato. Questa cosa fino a che punto ha un fondamento, fino a che punto invece l'operatore deve capire che di fronte a questa sfida deve diventare un'altra cosa? Allora, fino a un certo punto è vero che c'è stata in questi anni un'erosione da parte dell'operatore. La specializzazione però è un'altra cosa. La specializzazione sui segmenti affluent, sui vari segmenti, richiede una specializzazione, quindi richiede una capacità di fare un certo tipo di offerta. Sul discorso della tecnologia, il fatto ad esempio le compagnie sono state le prime a invitare la gente ad andare sui propri siti, però la maggior parte delle persone compra biglietteri sui siti di intermediari tecnologici, non va sui siti delle compagnie aeree, o comunque se ci va non trova il prezzo migliore. Quindi da un certo punto di vista è vero, ma fino a un certo punto, cioè il sogno di tutti su web era che ogni mio sito web l'albergo venda le mie tariffe e evito di pagare delle commissioni. La realtà è che l'albergo adesso paga più commissioni di prima e i vettori sono meno utilizzati frequentemente di prima, quindi è vero, ma fino a un certo punto. Fino a un certo punto. La realtà, senta, se paragoniamo la qualità dell'offerta alberghiera rispetto ad altri grandi paesi europei, noi abbiamo un problema analogo a quello che lei ha già toccato: un'offerta troppo frazionata, quindi soglie patrimoniali troppo limitate per poter investire e qualificare i servizi. E abbiamo anche medie catene abbastanza note, alberghiere, data, hotel, così via, che oggi sono in realtà nelle mani delle banche, perché chi le gestiva, dal gruppo Ligresti e così via, è finito nei guai per mala gestione, e oggi sono le banche a diventare titolari di queste catene. Ovviamente non è mestiere della banca, come tanti altri, anche mettersi a qualificare l'offerta alberghiera, ma da cosa dipende il fatto che non abbiamo un'offerta nel segmento medio-elevato, tranne molte eccezioni, ma dico come sistema nazionale, che pesi al paragone come quello che c'è in Francia e Gran Bretagna? Guardi, purtroppo questa è una tradizione di debolezza e di forza, viceversa del settore è stato visto di forza, ma in realtà secondo me sulle catene di debolezza. Delle grandi catene italiane che sono affacciate negli anni, ce ne sono poche che sono in buona salute, stanno bene, prosperano e fanno investimenti. Il fatto che le catene italiane nate negli ultimi anni purtroppo sono nate da esigenze finanziarie, da operazioni di immobiliaristi, e quindi crollando un po' il mercato immobiliare hanno subito diciamo dei contraccolpi seri. Questo è il fatto che sono in mano alle banche, perché spesso sono nate come operazioni di immobili su cui poi hanno impiegato degli alberghi. Senta, nella sua esperienza, l'euro ha fatto meglio o peggio? Mettendoci i primi anni in cui ci hanno regalato meno tassi di interesse e poi però questi ultimi anni di crisi, ma a voi che siete un operatore internazionale che vendete Italia e anche poi il traffico che si origina dall'Italia, non solo quello che viene, nel complesso lei si sentirebbe di dire che al settore l'effetto a oggi della moneta unica qual è? Col segno più o meno? Bella domanda questa. Nel discorso dell'incoming, sicuramente il fatto di essere nella lira e quindi il fatto che arrivano dei turisti in Italia, assolutamente sarebbe stato meglio essere con la lira, perché saresti stato svalutato e quindi avresti avuto meno concorrenza rispetto ad altri paesi. Dal punto di vista di Luca Patanè, quindi di operatore UVET che fa acquisizioni, che compra aziende all'estero e che nell'ambito dell'euro ne ha avuto un beneficio, quindi bisogna vederlo ovviamente. Esatto, a seconda della propria soglia dimensionale, però per crescere in un mercato come quello europeo, come avete fatto voi, meglio avercelo che no. Questo è quello che mi pare, certo, di aver capito. Per noi sì. Ecco, però non è per noi e non è per tutti. Non è per tutti, voi siete ovviamente il più grande, quindi qui stiamo parlando invece anche degli effetti sul segmento in quanto tale, perché molti ascoltatori ci dicono: ma andiamo alla lira e vedrete come la gente arriva da fuori. Io devo dire sempre a chi propone questa soluzione: attenti a non dimenticarvi, però, con la svalutazione della lira, dove siamo arrivati, dover portare più volte le riserve all'America, al Fondo Monetario e agli stessi tedeschi, perché noi andavamo solo svalutando senza fare produttività ed espandendo spesa e debito. Però ovviamente questa è un'altra questione, noi oggi non parliamo di questo. Sentiamo Marco che ci chiama da Monza. Prego Marco. Sì, buongiorno, buonasera a tutti. Prego. Io volevo lanciare una provocazione. Per rilanciare l'Italia, che è un bellissimo territorio, ha un sacco di risorse in termini di cultura, in termini di offerta per quanto riguarda il panorama turistico, di rivedere, prendendo diciamo due piccioni con una fa, anche l'attuale diciamo piano edilizio. Nella maggior parte delle città vengono costruite diciamo più case rispetto alla popolazione pro capite, cioè nel senso, cioè abbiamo deturpato troppo il territorio, quindi lei dice se abbattessimo un po' e tornassimo un po' avremmo, ecco. Poi senza costruire degli ecomostri, cioè nel senso magari ci sono delle palazzine bruttissime di seconda o terza categoria. Chiarissimo Marco, chiarissimo. Sentiamo Patanè cosa dice. C'è questo impatto nella discesa della nostra competitività internazionale per attirare anche del fatto che non veniamo più avvertiti e percepiti come un posto di bellezza ambientale, paesaggistica eccetera, ma ci siamo autorovinati secondo lei? Secondo me no. Io penso una cosa, anzi, che spesso dietro questo c'è un po' di populismo. Io faccio un esempio: si ricorda quando Soru ha fatto quella legge che si costruiva un chilometro e mezzo dalle coste in Sardegna? Da quel momento la Sardegna sono scesa nel turismo. Cioè, se noi pigliamo un albergo, andiamo all'estero, i turisti ti chiedono un albergo dove si può vedere il mare, dove il mare è vicino. Quindi, secondo me, si può ancora costruire sulle coste di questo paese in maniera selettiva, in maniera fatta bene, senza esagerare ma senza, esatto, darci la zappa sui piedi, va bene, esatto. E buttare giù gli ecomostri, ecco, e buttare giù gli ecomostri, almeno su questo siamo d'accordo. Grazie a Patanè, grazie a voi che siete in ascolto, appuntamento a domani.